Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Attraverso l'intimità, con l'amore, diventerai più ricco. E se puoi vivere in profondo amore, in amicizia profonda, in intimità profonda con molte persone, hai vissuto nel modo giusto. E dovunque ti accada di essere, comunque hai imparato l'arte. Anche là vivrai felice. Osho. Buongiorno a voi e benvenuti da Nicoletta. Con una riflessione di Osho, filosofo e maestro spirituale indiano, apriamo la puntata di oggi dedicata all'intimità. Un legame affettivo che implica condivisione, rispetto, conoscenza, un ingrediente fondamentale anche nell'intesa di coppia, di cui parleremo oggi insieme a voi e con tanti esperti. Do subito il benvenuto al professor Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica dell'Università degli Studi dell'Aquila, che è in linea con noi e che ci accompagnerà per tutta la nostra trasmissione. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, iniziamo subito con una definizione di intimità. Che cos'è? È intesa, feeling, conoscenza, pudore, confidenza, attrazione? Diamola in negativo prima di tutto. Bene. Nel senso che l'intimità non è solo sesso. Ecco, molto spesso si scambiano queste due parole, invece intimità, come appunto le parole chiave che stavo utilizzando, è molto di più. E tanto di più, forse le tre cose su cui si può lavorare per comprendere una definizione, che è una definizione complessa appunto di questa arte che è l'intimità, sono queste. Le metto proprio come parole chiave da sviluppare. Sì. Condivisione da una parte, complicità dall'altra, e poi una parola che viene molto poco ricordata, ma che invece è centrale quando c'è da mettere in comune qualche cosa, in fondo questo è l'intimità, ed è la parola stima. Sì. È una parola che sembra molto lontana nell'economia, nella ecologia, diciamo così, della coppia, ma che in realtà è fondamentale ed è un pochino una soluzione importante quando le cose traballano. Condivisione, complicità, stima. Datemi le vostre, gli ingredienti o un significato che voi date alla parola intimità. 800 24 0024. Tu stai guardandomi. Tu stai cullandomi. Tu stai pensandomi, ma non vuoi. Tu stai guardandomi, tu stai cullandomi, tu stai pensandomi. Così canta Paolo Conte in intimità, e probabilmente il guardarsi, il pensare, il dedicarsi dell'attenzione sono tutte ingredienti di questa intimità. Ne parliamo con la professoressa Chiara Saraceno, sociologa ed esperta di famiglia. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Il professor Iannini ha iniziato a dire che cosa non è l'intimità, ma è un concetto, quello dell'intimità, che si è modificato in questi anni, e negli ultimi anni ha cambiato anche un po', no? il modo in cui noi la intendiamo, forse perché viviamo in una società che vive di esteriorità, in cui il pudore, il rendere accessibile solo ad alcuni delle sfere della nostra vita privata non sembra non abbia più valore. Sì, innanzitutto va detto che già l'idea che l'intimità faccia parte del rapporto amoroso è, come dire, un'idea molto moderna. Cioè, per esempio nei rapporti di coppia eterosessuale, per lo più ancora un secolo fa non era prevista l'intimità, era come lo stare assieme e l'entrare in un certo senso nel privato dell'altro. Il primo passaggio, in parte lo troviamo anche tra i giovani oggi, è stata l'idea di un'intimità come fusionalità. No? Cioè, tu sei me, io sono te, siamo due metà di un intero, e così via. Per cui l'idea dell'intimità come il raggiungimento di uno stato quasi fusionale. Sì. Che è molto bello apparentemente, cioè come progetto, molto pericoloso anche, perché implica la perdita di sé, in un certo senso. E tra l'altro, storicamente, questo ha significato che una si perdeva nell'altro, quindi cioè con forte asimmetria. Oggi siamo in una fase in cui invece l'intimità si basa sul fatto che ciascuno, prima il collega parlava di rispetto, ma anche proprio sull'individualità, cioè si può raggiungere l'intimità solo quando si rispetta l'altro come altro, ma aggiungo io, si rispetta anche se come altro, cioè non è possibile raggiungere un'intimità se non si ha una consapevolezza della propria individualità, che non vuol dire io sono sopra tutti, no? Ma no. Cioè, ho coscienza dei miei confini, dei miei limiti, ma anche dei miei confini, che non mi perdo nell'altro. Professor Iannini, quindi mi scusi, professoressa Saracino, professor Iannini, quindi noi aggiungiamo a stima anche l'autostima. Beh, è fondamentale, diciamo, se posso dare un'immagine di quello che ho appena sentito, proprio come immagine, anche se la radio ha bisogno di fantasia per immaginare, per l'appunto. Immaginiamo che la coppia sia fatta di due cerchi, un lui e un lei. C'è un modello che è un modello, come dire, perverso e malato, uso parole forti, ma sono abbastanza adatte a questa circostanza, in cui i due cerchi sostanzialmente si sovrappongono. Immaginiamo invece la coppia, come dire, giusta, quella che funziona e che funzionerà, che sono due cerchi che sono accostati. C'è un overlapping, c'è una sovrapposizione per una parte, però i due cerchi rimangono distinti. Ecco, questa immagine è quella corretta, dove non c'è un annullamento nell'altro, cioè non c'è una cessione di tutto se stesso nell'altro, nell'altra, ma al contrario c'è la messa in comune, c'è la condivisione di una parte fondamentale, di una parte importantissima, ma che sostanzialmente permette il mantenimento della propria individualità. Quindi questa idea di stima e di autostima come elementi centrali, stima nell'altro e di autostima in se stesso, quindi come valore della propria individualità, credo che sia una delle fondamentali ricette per il mantenimento di una sana intimità. Se no è tutt'altra cosa, è qualcosa che può addirittura diventare malato. 800 24 00 24 per intervenire, professoressa Saraceno. Come dire, questa cosa che ci siamo appena detto non è semplice, no. Perché richiede non solo una forte attenzione, mi pensa, diceva la canzone prima, mi pensa, ma io dovevo essere anche capace di pensare a mia volta l'altro, ma richiede anche una negoziazione, cioè in fondo la non richiesta di intimità lasciava molta autonomia nel passato. La richiesta fusionale deresponsabilizzava, nel senso che io mi perdo nell'altro, poi magari ero un po' infelice, invece quando sono due individui che costruiscono assieme un'intimità comune mantenendo la propria individualità, richiede di camminare sempre sul filo del rasoio e di negoziare continuamente spazi, richieste e anche delusioni, perché ci si aspetta molto dall'altro, non ci si aspetta solo di dare ma anche di ricevere. Per ritornare poi alla sua domanda iniziale, che non volevo assolutamente eludere, oggi la facilità con cui si arriva presto alla sessualità, ai rapporti sessuali, soprattutto tra i ragazzi ma anche tra gli adulti, cioè in cui, come dire, sembra di raggiungere l'intimità per la via breve della sessualità, questo può anche uccidere l'intimità, nel senso che è una scorciatoia deresponsabilizza rispetto alla definizione di sé e dell'altro come due individui che devono costruire una relazione. Cioè sembra appunto che l'intimità dei corpi possa avvenire senza aver costruito un'intimità del pensiero, dei sentimenti. Allora, e con questa riflessione io della professoressa Saraceno vi invito a raccontarci le vostre impressioni, le vostre esperienze, anche a capire come l'intimità si modifica nel corso degli anni, quale intimità andiamo cercando. Professoressa Saraceno, la ringrazio davvero per essere stata con noi. Buona giornata. Intimità è una parola di quattro sillabe che sta per ecco il mio cuore e la mia anima. Prego, ficcali dentro un hamburger e buon appetito. Intimità, desiderabile e temuta. Difficile conviverci. È impossibile farne a meno. L'intimità è anche legata alle tre colonne della vita. Parenti, romanticismo e compagni di stanza. Caffè? Ci sono delle cose dalle quali non si sfugge. E altre che semplicemente non si vogliono sapere. Professor Iannini, abbiamo detto che intimità non è sessualità, non è il sinonimo di sessualità, ma aiuta comunque. Non c'è dubbio. Comunque, ecco, voglio agganciarmi a quello che ho appena, la citazione che è stata appena fatta. È una citazione, questa sì, veramente perversa. L'intimità è tutt'altro che cuore e anima nell'hamburger. È esattamente il contrario, cioè questa idea appunto che avevo rappresentato nell'immagine dei due cerchi che si annullano l'uno nell'altro, che è un'idea così apparentemente molto romantica, però è un'idea molto malata da tutti i punti di vista, perché poi c'è un esaurimento inevitabile nella coppia, non si ha più niente da dare. Quindi se è appunto, ecco, l'immagine tra l'altro vagamente cannibalesca che appunto di questo darsi completamente all'altro, all'altra, che, voglio dire, è compatibile con una definizione di amore, con una definizione di intimità, però attenzione, perché appunto questo elemento di annullamento significa poi impoverimento, la coppia va a esaurimento. Ora, cioè dobbiamo partire da un concetto: se l'intimità è un'arte, arte significa qualcosa che si impara. Certo. Quindi adesso diremmo meglio, invece che dire l'arte di amare, diremmo non più ars amandi, ma diremmo l'arte dell'intimità, cioè la capacità di convivere nel quotidiano, che poi è l'elemento fondamentale. Non è, è molto facile essere intimi per un weekend e poi come sante dire, parole, sante parole. Le nostre ascoltatrici già me lo stanno scrivendo, ma molti messaggi arrivano al 349-238-6666. Carmen ad esempio mi scrive: intimità e non avere bisogno di parlarsi, perché si è creato una sorta di linguaggio privato in cui tutto è chiaro, tutto è comprensibile, anche solo un gesto, un'occhiata acquistano significato. Quindi una forte intesa. Ma voglio andare a salutare Enza che ci chiama da Brescia, 800 24 00 24. Enza, buongiorno. Buongiorno, io volevo sapere se ci può essere intimità senza sesso completamente. Grazie Enza. Professor Iannini. Dunque, me la deve ripetere. Se ci può essere intimità anche senza sesso. Ah certo, questo dicevamo all'inizio. E poi ho un po' eluso la domanda che lei mi ha fatto. Dunque, sì, è vero, il sesso aiuta molto, è un elemento fondamentale della ricetta di questa torta complicata che è appunto l'intimità, ma non è l'elemento né centrale né necessario. Vi faccio un esempio che è estremamente rappresentativo. Il sesso mercenario, ad esempio, è un sesso estremamente non intimo. È sesso, questo è fuori di dubbio, ma è qualcosa di spaventosamente non intimo. Se ricordate Pretty Woman, la frase che... Non baciarmi sulla bocca. Esatto, cioè la rappresentazione dell'intimità, che è il bacio nella nostra cultura, viene negata a sottolineare la sostanziale mancanza di intimità di quel tipo di rapporto. Quindi il fatto di far sesso non significa essere intimi, il fatto di essere intimi non significa necessariamente che ci sia sesso. È il caso per esempio di due amici che vivono insieme da tanto tempo e che possono avere quella intimità anche di silenzio a cui si faceva riferimento prima, un'immagine molto bella della ascoltatrice che appunto faceva riferimento non solamente allo spazio del corpo, allo spazio della parola, ma anche allo spazio del silenzio. che è un altro elemento centrale di quello che è apparentemente non detto, ma è perfettamente capito. E quindi questo sì che delinea appunto una definizione di intimità molto più ricca. Quindi rispondiamo sì, effettivamente così, si può essere intimi anche senza sesso, ma direi che il sesso aiuta molto. Io voglio riassumere un messaggio molto lungo che mi è stato inviato da Chiara, che mi racconta che il desiderio tra lei e il suo compagno si è spento, non hanno più voglia di fare l'amore e quindi la loro intimità è andata perduta anche nel quotidiano, nel piacere di fare le cose insieme. Allora Chiara mi chiede se è nato prima l'uovo o la gallina, se c'è stata un'intimità, una condivisione di situazioni che si è persa e quindi ha avuto una ricaduta anche sul piacere di fare l'amore o il contrario. Sicuramente di questo ne parleremo insieme al professor Iannini e ai nostri ospiti. 800 24 00 24. Noi adesso andiamo a sentire i mercati e il meteo, ma prima sempre un saltino sul nostro Daily Lab. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo Giovanna che ci chiama dalla provincia di Pavia. Buongiorno Giovanna. Oh, buongiorno. Avete già detto tutto sull'intimità e molto bene, i suoi ospiti sono stati chiarissimi e esaustivi. Volevo semplicemente riassumere quello che è per me, che sì, è libertà. Come ha detto lei all'inizio, siamo in una società che bada molto alle apparenze, quindi noi donne poi siamo specialisti nel trasformarci in uno o nell'altro secondo delle occasioni. Ecco, abbiamo sviluppato questa capacità camaleontica, invece l'intimità è essere liberi di essere se stessi, di mettersi a nudo sia fisicamente che moralmente, diciamo, spiritualmente. Questo è Giovanna, e lo chiedo a lei, ma lo chiedo anche ai nostri ascoltatori: quando, che cosa le fa capire di aver varcato, no? Di essere entrata in quello spazio che possiamo definire di intimità? Il professor Iannini ci ricordava una scena di Pretty Woman in cui lei diceva: facciamo sesso, ma non puoi baciarmi, non baciarmi sulla bocca. Questo, no, professor Iannini ci racconta tanto. Ecco, quando Giovanna, ma lo chiedo a voi da casa, quando capite che la persona con cui state vivendo, con cui state intrecciando una relazione, è diventata intima? Che cosa ve lo fa capire? Una cosa di testa, di pelle, una parola? Giovanna? L'ho accettata anche nelle piccole cose che potrebbero essere difetti, ecco, quando si sorride a una mia mancanza o quando vengo accettata. Quando viene accettata? Simone da Roma, grazie a Giovanna. Buongiorno Simone, benvenuto e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Io a Giovanna non posso dare che ragione, io porto un'esperienza e non oso definire meravigliosa, di una conoscenza che ho fatto in chat più di un anno e mezzo fa ormai. Sì. Ci siamo conosciuti per caso con una donna e siamo, posso dire ad oggi, di aver conquistato con questa donna un'intimità incredibile come non mi è mai successo nella vita, e tutto questo scevro totalmente da qualsiasi interesse di tipo sessuale. Ce n'è voluto un po' per capire che il sesso non c'entrava più nulla. All'inizio c'è sempre un po' di sospetto. Sì. Però poi piano piano ce lo siamo giurato, nel senso che non abbiamo nessun interesse di quel tipo, ed incredibilmente questa cosa forse ha anche contribuito a stabilire un rapporto così bello e pulito. È una donna, premetto, che aveva ed ha ancora purtroppo tantissimi problemi familiari, una donna veramente in crisi, poverina, ha trovato in me uno sfogo. Sì. E questa cosa ha contribuito a innanzitutto tutto accendere una complicità meravigliosa e a farci stare bene, semplicemente bene. Tutto in chat o anche in carne e ossa? No, in carne e ossa no. Mai. Allora, ci divide una distanza esigua, 200 chilometri tra l'altro, di una bellissima autostrada, per cui ci vorrebbe un'ora e mezza per incontrarci. Quindi, però devo dire, malgrado c'è la voglia, ogni tanto ce lo diciamo, ma ci incontriamo per un caffè, però poi piano piano sembra che questa cosa sia totalmente futile. E quindi rimane un'intimità in chat. Ne voglio parlare col professor Iannini. Grazie Simone per averci raccontato la sua esperienza. Intanto invito gli ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24. Tanti di voi forse si riconosceranno nella storia di Simone. Professor Iannini, un'intimità in chat, un'intimità a distanza, è possibile? Eh beh, queste sono le modalità nuove con cui dobbiamo fare i conti per ragionare di sessualità e di rapporti umani. Certo è una ellissi in qualche maniera, cioè manca un pezzo, nel senso che l'intimità è anche una capacità di fare dei passi indietro che il mezzo elettronico sostanzialmente non richiede. Non c'è sostanzialmente bisogno, come dire, di mettere in comune qualche cosa della propria libertà. Ecco, prima la definizione di libertà come sinonimo di intimità a me è piaciuta moltissimo, perché appunto è l'intimità, è anche questa libertà di essere se stessi, cioè di essere completamente fiduciosi, ecco il tema della stima che ritorna, e quindi della fiducia, fiduciose che il giudizio dell'altro, dell'altra, non sarà un giudizio severo, un giudizio negativo, ma al contrario sarà un giudizio intimo. Ora, tutto questo è possibile anche attraverso una chat, per carità, ci si può raccontare tantissimo di se stessi, però ecco, mi manca quel pezzo che è il pezzo del quotidiano, che è il pezzo delle piccole cose, anche questo è stato detto ed è molto giusto, dell'incontrarsi la mattina con gli occhi pesti ancora sonnati, del condividere un giudizio, una battuta e, come dicevo prima, ancora il silenzio. Beh, ecco, questo mi manca un pochino in questo modello di un'intimità elettronica, che va benissimo perché queste sono modalità nuove e con cui dobbiamo fare i conti, però forse appunto, ecco, qualche cosa in più, l'intimità vera ce lo può offrire. Andiamo da Nadia, ci chiama dalla provincia di Venezia, 800 24 00 24. Buongiorno Nadia. Buongiorno a voi. Per me l'intimità è stata così una scoperta anche di felicità, in quanto è capitato in questi ultimi periodi, scusate un po' l'emozione, di cogliere come si è riuscita ad interpretare il pensiero e un po' il giudizio o quello che era il desiderio della persona che mi sta accanto e ciò che stava pensando nei miei confronti. E questo mi ha dato proprio la sensazione così dello scambio che c'è, perché di fronte a situazioni del quotidiano anche il non parlarsi o il dire poche cose e poi cogliere però che in quel momento il tuo compagno sta pensando una certa cosa che tu sei riuscita a percepire è come leggersi nel pensiero, come mi scrive Luigi. Intimità è leggersi nel pensiero e anticiparsi senza parlare. Grazie a Nadia, ma noi quando diciamo intimità pensiamo anche a qualche cosa di una chimica, una persona con cui stiamo bene a pelle. Ma l'intimità è questione di pelle o di testa? Ne parliamo con il professor Andrea Mazzatenta, che è esperto di neurofisiologia del sistema olfattivo all'Università di Chieti, Pescara e Teramo. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Pelle o testa? Ma io devo dire che è pelle, nel senso è biochimica, chimica. Questo è la scienza a dircelo. La scoperta dei feromoni risale a circa 50 anni fa negli insetti, e poi dagli insetti fino ad arrivare all'uomo in 50 anni la scienza ci ha dimostrato qual è il ruolo di queste sostanze. Le sostanze sono i feromoni, sostanze molto particolari che vengono emanate dal nostro corpo, da particolari ghiandole, e queste sostanze poi vengono percepite dal nostro partner o potenziale partner in maniera inconscia. Questo è molto importante. Tuttavia, queste sostanze vanno a stimolare delle regioni del nostro encefalo molto particolari, che nel loro complesso prendono il nome di sistema limbico, e questo sistema limbico va a regolare, a modulare la fisiologia del nostro organismo, cioè il rilascio di ormoni ad esempio, e questi possono o meno indirizzarci verso un'intimità o appunto no. E la chiave di lettura è una chiave di tipo biologico, come dimostrato negli animali e oggi anche nell'uomo. Questi segnali chimici molto particolari determinano un tipo di comunicazione, che è quella chimica, molto particolare, per individuare se il soggetto che abbiamo di fronte è del nostro stesso sesso o meno, se è sessualmente maturo o addirittura il suo grado di parentela. Quindi questo è il ruolo dei feromoni nella comunicazione sessuale della nostra specie. Quindi, professore, possiamo dire che l'intimità, insomma, una persona ci piace, la riconosciamo anche a naso, tra virgolette. Tra virgolette, sì, il gradimento di una persona e soprattutto la scelta di questa persona come potenziale partner risiede proprio in quei segnali chimici che vengono emanati da questa persona. Professore, io la saluto, la ringrazio per essere stato con noi, invito i nostri ascoltatori a restare perché dopo le informazioni sul traffico che Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica mi dice che è tempo di dare la linea, noi torniamo insieme a parlare di intimità. Che cosa la fa scattare? Come si conquista? Come si mantiene? Anche nell'interno di coppia, anche e soprattutto quando abbiamo il professor Iannini in linea con noi, l'amore, fare l'amore diventa difficile. Essere e benessere. Buongiorno ad Anna che ci chiama da Milano, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io ho sentito la trasmissione, ma è una cosa che spesso mi chiedo. Comunque, dopo un po' di anni stando insieme, chiaramente si arriva un'età in cui si esauriscono un po' le cose, o comunque sì, poi magari si rifanno gli stessi errori e si entra nella monotonia e tutto. Per cui io mi chiedevo, ma c'è la possibilità di riprogrammare in qualche modo questo stare insieme, questa intimità? Magari anche, non so, dando la possibilità di accedere a dei corsi, tra virgolette, a delle magari dei tipi di, non so, scuola, qualche cosa, comunque sì, che ogni tanto... Ci sono, Anna da Milano ci dice, ci sono corsi per tutto, ci sono anche dei corsi, professor Iannini, potrebbero esserci, per aiutare le persone a tenere viva, a coccolare l'intimità, a farla crescere, modificare, perché l'intimità cambia. Mi permetto una battuta, la risposta alla domanda è purtroppo sì, ci sono, nel senso che promettono molto spesso cose che non sono capaci sostanzialmente di mantenere. Non è tanto il corso infatti che aiuta, può essere utilissimo il rapporto di una coppia con uno psicoterapeuta, con uno psicologo della coppia, questo sì può essere veramente utile perché può guidare come una sorta di coaching, di allenamento alla intimità, ma ecco, l'idea del corso probabilmente è un po' così, molto americana, ma molto poco realistica. È vero però che ci sono dei trucchi, questo sì, dei trucchi che qualche possiamo trucchetto imparare per possiamo... tenere questa fiammella dell'intimità accesa il più possibile. Dico una banalità che però è tutt'altro che tutto che serve ara. Professore, io sono dell'idea che tutto serve, no? Non c'è dubbio, però ecco, attenzione perché in qualche modo i trucchi vanno bene, le scorciatoie un pochino meno, nel senso che io tante volte mi è capitato di vedere queste coppie che hanno seguito questi corsi che promettevano chissà che cosa per poi ritrovarsi a non avere più le parole per dirlo, come si dice, cioè non avere più nemmeno quel minimo linguaggio, quel minimo vocabolario di intimità, che è una cosa che tutto sommato è relativamente difficile da imparare così a freddo, ma che si impara nel quotidiano. Però ecco, volevo dire il trucco, per esempio, un trucco. Quante sono le coppie che ci stanno ascoltando, anche coppie molto giovani, che rinunciano all'intimità domestica con un gesto molto semplice e molto frequente, tenere la porta della camera da letto aperta o peggio ancora avere i bambini in camera da letto. Questo è un comportamento frequentissimo che fa molto male ai bambini tra l'altro e che è un vulnus, è una ferita drammatica a quell'intimità a cui abbiamo dedicato questi ultimi minuti. Quindi Ci sono delle attenzioni, ad esempio Gian Pietro mi scrive: l'intimità mia e di mia moglie è stata distrutta dalle nostre figlie di 6 mesi e 4 anni. Ecco, bisogna lavorare poi per ritrovare l'intimità, proteggerla. Vede che ancora ritorniamo in questa dimensione di rispetto. Un bambino nella camera da letto è un bambino che viene posto a non rispettare l'intimità, ma non viene rispettata l'intimità del bambino in qualche modo, cioè la sua individualità. Ecco, questo quindi, ripeto, non è tanto il corso che lo insegna, ma quanto magari il rapporto con col sessuologo che può in qualche maniera, ecco, aiutare a comprendere questi errori, questi trucchi che non vengono messi in atto. Professore, ecco, lei parlava però poi del pericolo delle scorciatoie. Allora io vorrei chiederle tutte queste, ma parliamo di intimità all'interno della coppia e leghiamola al piacere di fare l'amore. Ci sono tante coppie che devono ricorrere alle pilloline dell'amore. Questa è una scorciatoia, è un aiuto, è un'autostrada, come le mettiamo? Assolutamente no, non è stata una scorciatoia, anzi mette in qualche modo a prova l'intimità. Le dico una cosa, prima Mazzatenta faceva riferimento alla chimica, c'è un ormone che è proprio alla base dell'intimità e si chiama ossitocina, viene prodotto quando facciamo sesso, serve a mantenere il legame, lo fa negli animali ma lo fa assolutamente anche in noi esseri umani. Viagra è una molecola che iniettata nel cervello di un animale da esperimento stimola la produzione di ossitocina, quindi in realtà è tutt'altro che, come dico, una scorciatoia, anche queste molecole sono capaci di stimolare i corretti meccanismi che in qualche maniera aiutano l'intimità. Attenzione, perché parlo di aiuto, non sto parlando dell'intimità, ci mancherebbe altro che pensare che l'intimità è solamente fatta da una molecola, sarebbe ridicolo, ma certamente gli ormoni giocano un ruolo assolutamente determinante e queste sostanze, appunto Viagra e fratelli, possono essere estremamente utili. Però ecco, anche lì c'è un trucco, nel senso che quelle coppie che, per esempio, dove è necessario il medico prescrive il Viagra, che non sono capaci di parlarne, per cui il Viagra deve essere assunto di nascosto, sicuramente io, quando mi trovo davanti come andrologo queste coppie, non posso che giudicare un livello di intimità molto basso. Io voglio chiudere questa nostra trasmissione con un'amica, un'attrice, Claudia Penoni, è in linea con noi. Ciao Claudia, bentornata. Ciao Nicoletta, ciao. Senti, carissima. Perché ho pensato a te in una puntata dedicata all'intimità? Perché... Chissà perché è difficile capirlo, per chi non segue Zelig. Per chi non segue Zelig, ma per tutti quelli che lo seguono ricorderanno il personaggio che Claudia Penone interpretava insieme a Leonardo Manero, una coppia in cui c'era una sorta di intimità, un'intimità tutta particolare. È particolare, intanto trovo grandioso che loro comunque, nonostante gli scarsissimi risultati, si ostinano a provarci, lo fanno, è già un passo avanti, sì. Perché loro hanno questi rapporti brevissimi e fugaci, sempre insoddisfacenti, però... Nel loro cinismo poi Kripstak non è una perdente, perché in realtà comunica tutta questa insoddisfazione al suo partner, appunto è già molto avanti, perché non tace, non sopporta in silenzio questa mancanza, ma lo fa sempre presente anche in maniera pesante. Se mi permetti, magari faccio una battuta, visto che sono in linea io con voi stamattina, saluto Petrektek, una battuta tipica dopo un rapporto sessuale, non so, Petrektek dice: hai visto Kripstak? Anche questa volta sono stato travolgente come un tornado. Lei, invece di dire sì, siccome non è stata soddisfatta, dirà: più che come un tornado, Petrektek, sei stato come un temporale estivo. Dura poco, ma riesce a rovinarti la giornata. Magnifico. E chiudiamo con Claudia Penoni. Grazie. Donne, impariamo. Grazie al professore Emanuele Iannini che ci ha condotto in questa bella trasmissione che potete scaricare. Vi invito a farlo. Intanto vi saluto, a domani, buona giornata a voi. Essere e benessere.